il bene di tutti. Parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Ventiquattro mesi passano in fretta. Due anni fa, in questi stessi giorni, il Veneto si trovava ad affrontare il dramma dell'alluvione. Un'alluvione tremenda, incancellabile dalla memoria delle persone colpite, capace di rivaleggiare per peso e per numero di danni solo con il disastro del 1966. Eppure, l'acqua uscita nel 2010 dai canali e dai fiumi per poi invadere le colline nel Veronese, il centro abitato di Vicenza e la Bassa Padovana, si è trovata davanti un paesaggio totalmente cambiato rispetto a quello del 1966. Intere campagne, infatti, sono state cancellate negli anni per far spazio a centri abitati e zone industriali. Mari di cemento hanno tolto al terreno la possibilità di assorbire le piogge più intense. Per non parlare degli argini e dei fiumi, non più dragati, non più rinforzati, indeboliti da decenni di incuria. E pensare che i nostri nonni e persino i nostri antenati della Serenissima, con i mezzi scarsi che avevano, facevano della sicurezza idrogeologica una delle loro priorità, ben più di noi. Novembre è il mese che la Chiesa dedica alla salvaguardia del creato. Lo abbiamo salvaguardato o ce lo siamo fatto nemico con i nostri comportamenti e le nostre scelte sbagliate? Dal messaggio della CEI per la settima giornata della salvaguardia del creato, educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra. Possiamo allora capire che territorio è la somma di tutti quei beni la cui natura richiede una gestione pubblica: le acque, le strade, l'igiene pubblica, pulizia dai rifiuti e controllo delle patologie epidemiche, i boschi, ormai anche l'aria e il fuoco, l'energia, sono tutti elementi diffusi nello spazio che richiedono una tutela da parte di un organismo super partes e lungimirante. E qui cominciano i problemi. Principalmente essi sono di due tipi. Da un lato vi è una continua e nei tempi moderni crescente spinta da parte di privati cittadini a mettere a valore porzioni del territorio per propri scopi, siano questi la soddisfazione di bisogni o l'acquisizione di un profitto. Così la ricerca di un'abitazione confortevole e la volontà dell'impresa edile di guadagnare dalla sua costruzione hanno dato una spinta fortissima all'urbanizzazione, alias occupazione di suolo per fabbricati a uso residenziale. Dall'altro lato vi sono le autorità pubbliche chiamate a gestire i beni aperti a tutti. Per un verso, infatti, si sono dimostrate nel tempo molto, troppo permeabili ad interessi di parte. Per un altro, i cittadini hanno vigilato poco sull'effettiva realizzazione di questi piani di fabbricazione. Abbiamo in collegamento Eugenio Zaccia, presidente del Consorzio Bonifica Bacchiglione. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Innanzitutto una domanda. Cos'è e come funziona un consorzio di bonifica? Ma il consorzio di bonifica è un ente economico che ha una funzione pubblica, mantiene in efficienza le reti che sono di proprietà pubblica, cioè canali e impianti idrovori, e garantisce la fruibilità e quindi la vita su molta parte del territorio, ad esempio della nostra regione, del Veneto. Ecco, chiaramente avete avuto da fare in questi anni, dopo l'alluvione che ha colpito il Veneto nel 2010. A che punto siamo? Ma diciamo che il consorzio di bonifica, facendo un'attività di manutenzione, è un'attività costante che continua nel tempo. L'alluvione in particolare del 2010 ci ha messo in difficoltà, almeno come Bacchiglione, in molte parti del nostro territorio, perché l'alluvione ha spazzato via molti manufatti, molte strutture esistenti che sono state messe in grossa difficoltà, non solo la rotta del fiume Bacchiglione, ma all'interno nei territori l'uscita dell'acqua ci ha creato non poche difficoltà. Per quanto riguarda i fiumi, la regione sta procedendo, dopo la chiusura delle falle, deve rafforzare gli argini, ed è un'attività che fa direttamente la regione, non coinvolge i consorzi. Mentre, solo per fare un esempio, nel bacino che riguarda la rotta del Bacchiglione, dove noi abbiamo avuto i maggiori danni, circa 2.600.000 euro, abbiamo ripristinato tutto già da marzo del 2011, quindi diciamo così, i cittadini a questo punto di vista possono stare tranquilli. Sì, abbiamo visto, io seguendo per la cronaca a Ponte San Nicolò, ho visto sì. I lavori che sono stati fatti a quel punto, però ecco, in generale, al di là insomma delle competenze del Genio Civile, del Consorzio, certo. Come ha messo il Veneto dal punto di vista idrogeologico, ovvero se capitassero eventi paragonabili a quelli del 2010, a che punto siamo? Ma sì, la domanda credo sia molto interessante. Credo che però la risposta è un po' complessa e articolata. La prima cosa è questa: purtroppo nella nostra regione, dopo l'alluvione del 1966, non è stato fatto niente nel rafforzamento del sistema dei fiumi. L'alluvione del 2010 ha in qualche modo portato in evidenza della necessità in questa regione di considerare l'intervento sui fiumi come un fatto indispensabile, soprattutto attraverso la creazione di vasche di espansione in montagna per evitare la rottura degli argini, visto che i fiumi sono pensili nel momento in cui l'acqua che avviene in montagna attraversa la pianura, e se la quantità, come è avvenuto nel 2010, è una quantità importante, il rischio che saltino gli argini anche oggi esiste e non è risolto. Però servono investimenti si parla di 1,5 miliardi di euro in Veneto per sistemare, mettere in sicurezza, diciamo, la regione dal punto di vista idraulico. E il problema vero è questo: 600 mm che arrivano in montagna, quello che è avvenuto nel 2010, se arrivassero anche oggi, il rischio che possano saltare gli argini è ancora attuale? Sì, chiaramente qui viaggiamo su due fronti. Da una parte ci sono i grossi lavori, le vasche di laminazione, così le chiamano, certo, in montagna, o la famosa idrovia. Però c'è anche una situazione dal punto di vista della manutenzione, penso per esempio ai dragaggi. Io non sono riuscito a capire da giornalista locale quando è stato fatto l'ultimo dragaggio e quanti metri o centimetri, non lo so, ma qualcuno dice metri, si potrebbero recuperare nel letto del fiume. Bene, io credo che sia molto vero quello che stai dicendo. Onestamente nemmeno io mi ricordo quando sia stato fatto l'ultimo dragaggio in fiumi come può essere il Bacchiglione e il Brenta. Il dato vero è che le manutenzioni, mantenere in efficienza i fiumi non porta pubblicità, e ho la sensazione che mentre i tecnici della regione qualche volta non sono stati magari sufficientemente pressanti nei confronti della politica per trovare risorse per fare questi interventi, inaugurare un cavalcavia porta visibilità, scavare un fiume non lo porta. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Qualunque sia il colore, qualunque faccia hai, qualunque sia il motore, tu non fermarlo mai. Qualunque sia. qualunque sia la terra dove abiterai, qualunque sia la stella che tu seguirai, ogni cosa a suo tempo, ma quel tempo è già qui. Qualunque sia il tuo male puoi restare, qualunque sia il colore, Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento con Eugenio Zaggia, presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Grazie per essere con noi. Buona giornata. Abbiamo visto prima le manutenzioni o le opere non fatte. Quali sono i problemi che impediscono alla politica e agli enti preposti alla gestione del territorio di fare fino in fondo quello che insomma dovrebbero fare? Ma io ho una mia teoria che è questa, cioè magari non è giusta, però ve la offro. Insomma, ho la sensazione che sul tema dell'acqua e delle vie d'acqua, se un secolo fa erano le arterie più importanti per il trasporto, in particolare delle merci nel nostro paese, con l'avvento del trasporto merci su gomma, praticamente noi abbiamo totalmente abbandonato le vie d'acqua, e nell'abbandonarle ai fini anche dello sviluppo economico, della crescita dei territori, ci siamo anche dimenticati di mantenerli. E il problema è che nella memoria della gente il fatto che questa regione è una crosta di terreno sopra un grande giacimento di acqua, perché di origine alluvionale, così è nata la pianura padana, e che quindi con l'acqua noi dovremmo sempre misurarci, sia stato rimosso nella conoscenza anche di chi vive in Veneto e nelle regioni della pianura padana. Forse dovremmo riportare come tema di conoscenza anche nelle scuole la storia di questo nostro territorio e la importanza dei fiumi. Ecco, se lei lascia la macchina in garage 3 anni, spero non abbia la presunzione di andare là a girare la macchina che vada in moto, cioè di girare la chiave che la macchina va in moto. Appunto. Lei ha anticipato in parte la prossima domanda che volevo farle, ovvero far conoscere nelle scuole, far conoscere queste tematiche ai cittadini, perché magari i cittadini che conoscono i rischi e conoscono anche le opportunità che si possono avere da un ambiente tenuto in ordine e pulito, certo, possono magari fare delle scelte anche nel momento del voto, oppure richiedere ai loro politici questi certo interventi. C'è abbastanza consapevolezza? Non c'è? E se non c'è, come alimentarla? Ma io credo che sicuramente ci sia una responsabilità anche dei consorzi di bonifica, anche delle istituzioni regionali, nel non far conoscere quello che si sta facendo e forse anche quello che non si sta facendo. Quindi la informazione, secondo me, in questo momento su questo tema è carente. Faccio anche un altro esempio. Il sistema Veneto, sono 10 in Veneto i consorzi di bonifica che hanno entrate dai cittadini, non dallo Stato o la Regione, ma dai cittadini, per oltre 100 milioni di euro. Di questi 100 milioni di euro, 75 milioni di euro ogni anno vanno nella manutenzione di circa 25 mila chilometri di canali che sono mantenuti dai consorzi di bonifica e 480 impianti idrovori. Significa 750 milioni di euro in 10 anni, 7 miliardi di euro in 100 anni. Allora, in una regione come il Veneto, dove i fiumi sono migliaia di chilometri, ed è questa una regione di fiumi, quanti soldi vengono investiti dalla regione nei fiumi ogni anno? Ho la sensazione che sia una parte minoritaria degli investimenti che la regione fa sulle strade, sulla viabilità e quant'altro. Eppure ogni volta che piove si rompono gli argini. Questo è il problema vero. Ecco, al di là delle alluvioni, ci sono numerosissimi, ad ogni pioggia forte, insomma, scantinati, fossi che straripano, strade allagate. Certo. Una parte delle cause, chiaramente, è la cementificazione di questi anni e il fatto che il terreno assorba sicuramente meno acqua rispetto a quello che poteva fare anni fa. In Veneto si è costruito forse troppo e male? Altra questione, si è costruito anche in zone che periodicamente magari incontrano l'acqua, si può fare quello che si vuole, ma l'acqua c'è sempre? Ma io credo che hai già dato una parte della risposta. Uno, abbiamo costruito tanto e non abbiamo adeguato le reti. E questo è un primo problema, adeguare le reti. Noi stiamo rincorrendo la trasformazione. Avremmo dovuto, in maniera virtuosa, fare le cose nuove se serviva edificare quanto abbiamo edificato, ma realizzando nuove opere idrauliche, nuovi canali, nuovi fiumi, in modo che fosse in grado questo di assorbire quelle che sono le trasformazioni sul territorio. Detto questo, il secondo elemento è: noi abbiamo osservato che negli ultimi 25 anni sta avvenendo una cosa strana. Piove non molto meno di quanto pioveva 40 o 50 anni fa, però piove in maniera molto più concentrata. E dai dati anche che il mondo della bonifica ha raccolto negli ultimi 20 anni e la stessa regione ha elaborato, ci siamo resi conto che dovremmo riadeguare tutta la rete minore di bonifica e impianti idrovori a un mondo che sta cambiando anche nei comportamenti delle piogge. Faccio un esempio: piove forse non meno di quanto pioveva 20 anni fa, piove in pochissimo tempo, il che vuol dire che le reti esistenti sono in grande difficoltà. Se piove 300 mm in una giornata, vuol dire un terzo della pioggia di un anno. Questi 300 mm 50 anni fa venivano in 10 giorni. Le reti che noi abbiamo in Veneto, che nascono tra il 1500 e il 1600, poi adeguate nel tempo, non sono tarate per questi tipi di pioggia. Nelle aree urbane in particolare sono spariti gli invasi, rimangono le condotte che scaricano l'acqua. 300 mm d'acqua mandano sott'acqua qualsiasi città in Veneto e del mondo, tanto per essere chiari. Speriamo, insomma, di riuscire a ripensare anche al nostro territorio e ad investire in primo luogo sulla sicurezza, perché pagare per risarcire i danni è sicuramente un impegno molto più gravoso di quello di metterci in sicurezza tutti. Io sono perfettamente d'accordo su quanto dici. Direi che dovremmo riavere un'attenzione diversa al mondo in cui viviamo, ma anche al territorio, e gestire l'acqua, che è una grande risorsa, non con la preoccupazione che quando piove andremo sott'acqua, ma pensando che è una grazia di Dio senza il quale l'uomo non potrebbe vivere, e non averne paura. Grazie infinite per essere stato con noi. Grazie. Ricordiamo l'appuntamento di sabato 3 novembre 2012 nell'Aula Magna della Facoltà Teologica del Triveneto dalle 9.30 alle 16, cittadini di questo mondo Open Field 2012. Interverranno tra gli altri Monsignor Roberto Tommasi, il Vescovo di Padova Monsignor Antonio Mattiazzo, la teologa Noceti, il filosofo Alici, l'editorialista Ernesto Galli della Loggia, nel pomeriggio invece il parlamentare Bachelet e l'ex parlamentare Franza Crepaz. Per maggiori informazioni visitate i siti www.acipadova.it e www.pastoralesociale.diocesipadova.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi alla settimana prossima. Avete ascoltato? Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.